186. Carciofi fritti. Questo è un fritto molto semplice, ma pure pare incredibile. Non tutti lo sanno fare. In alcuni paesi lessano i carciofi prima di friggerli, il che non va bene. In altri li avvolgono in una pastella la quale non solo non è necessaria, ma leva al frutto il suo gusto naturale. Eccovi il metodo usato in Toscana che è il migliore. Colà, facendosi grande uso ed abuso di legumi ed erbaggi, si cucinano meglio che altrove. Prendete per esempio due carciofi, nettateli dalle foglie coriacee, spuntateli, mondatene il gambo e tagliateli in due parti. Poi, questi mezzi carciofi, tagliateli a spicchi, o per meglio dire a fette, da cavarne 8 o 10 per carciofo, anche se non è molto grosso. Di mano in mano che li tagliate, gettateli nell'acqua fresca e quando si saranno ben rinfrescati, levateli ed asciugateli così all'ingrosso o spremeteli soltanto, gettandoli subito nella farina perché vi resti bene attaccata. Montate a mezzo la chiara di un uovo, che uno solo basta per due carciofi. Poi, nella chiara, mescolate il torlo e salatelo. Mettete i carciofi in un vagliettino per scuoterne la farina superflua e dopo passateli nell'uovo, mescolate e lasciateceli qualche poco onde l'uovo si incorpori. Gettate i pezzi a uno in padella con l'unto a bollore e quando avranno preso un bel colore dorato, levateli e mandateli in tavola con spicchi di limone perché, come ognun sa, l'agro sui fritti che non sono dolci dà sempre grazia ed eccitamento al buon bere. Se desiderate che i carciofi restino bianchi, è meglio friggerli nell'olio e strizzare mezzo limone nell'acqua quando li mettete in molle.